incastra nei documenti. E vi dirò, a rischio di passare per il solito rompiscatole, che non sono stato particolarmente entusiasta nel ricevere al posto del tradizionale certificato una tessera elettorale valida per partecipare niente meno che a 18 votazioni. La starete ricevendo anche voi in questi giorni. E non tanto perché la prospettiva di dover affrontare 18 campagne elettorali nei non moltissimi anni che presumibilmente mi restano mi sembra quanto di più deprimente si possa immaginare. Quello è un problema, certo, ma è un problema mio. E non escludo che l'idea possa colmare di genuino entusiasmo qualche elettore più giovane e più entusiasta. È la natura stessa di quel documento che mi sembra dar adito a qualche ragionevole perplessità. Capirete, una tessera strettamente personale a carattere permanente non è una cosa da poco. L'istituzione a carattere permanente in Italia, a parte l'ergastolo, non ce ne sono poi molte, e non sono permanenti se non mi sbaglio nemmeno i normali documenti d'identità, e questa invece è una carta che il titolare, come gli si intima nella lettera d'accompagnamento, è tenuto a conservare con cura, che in caso di variazione dei dati va scrupolosamente aggiornata sempre a cura del titolare mediante l'applicazione di appositi tagliandi autoadesivi, che in caso di furto o smarrimento, che succede, e comporta una denuncia presso i competenti uffici di pubblica sicurezza, che va debitamente consegnata alle autorità municipali in caso di trasferimento in altro comune, e via dicendo. E si tratta insomma di un documento che impone a chi lo detiene un certo numero di obblighi e impegni, pena la rinuncia all'esercizio del diritto di voto. Il che porta la normativa elettorale italiana, se non proprio al livello degli Stati Uniti e degli altri paesi in cui per votare bisogna darsi la pena di registrarsi presso appositi uffici e compiere iniziative del genere, certo in quella direzione. E come succede in quei paesi, la cosa contribuirà senza dubbio a ridurre in qualche misura, maggiore o minore, il numero dei votanti, a onta e scorno delle deprecazioni che si levano ogni chiamata alle urne sul pericolo dell'astensionismo. E anche chi a quel pericolo personalmente non crede, anche il più accanito degli astensionisti, non troverà certo una gran soddisfazione all'idea di un concittadino che non va a votare, ma non lo fa per scelta consapevole, perché è razionalmente convinto che si tratti di una pratica da cui per un motivo o per l'altro è opportuno astenersi, ma perché proprio non ricorda in che cassetto è finita la maledetta tessera e non ha voglia, tempo o disposizione per andare in questura per fare la denuncia di smarrimento e in comune per chiedere il duplicato. Corre voce che l'introduzione di questo nuovo ingegnoso sistema sia dovuta a motivi prettamente economici. Lo Stato è povero e allo Stato costa molto meno mandare una tantum a ogni cittadino maggiorenne la sua brava tessera raccomandandogli di conservarla con cura, piuttosto che far stampare le capitali altrettanti certificati ogni turno elettorale o referendario. Sarà vero, naturalmente, sarà vero, e con queste chiavi di luna ogni soldo risparmiato è un soldo guadagnato. D'altronde, come insegna il Pio Formigoni, la necessità di risparmiare qualche miliardo può giustificare le richieste più stravaganti. Ma resta vero, se si bada alla sostanza dei fatti, che ci sono delle cose su cui non è proprio il caso di risparmiare. E che un'innovazione che rende più difficile al cittadino l'esercizio di un diritto fondamentale non può essere fatta passare per una semplice misura di razionalizzazione contabile. E poi non datemi del paranoico, ma a me l'idea di un documento dalla consultazione del quale risulti chiaramente quante e quali volte ho votato nelle ultime 18 consultazioni, perché ogni volta ti mettono sopra un timbro, io non so cosa dirvi, ma proprio non mi va. E io voglio poter votare o non votare a seconda di come la penso ogni singola volta, e non desidero che queste mie scelte siano attestate su una tessera che chiunque imbecille può chiedermi di esibire. So che quei dati non erano segreti neanche prima, che erano recuperabili dai registri elettorali anche nel vecchio regime, ma c'è una bella differenza, nonostante tutto, tra un'annotazione su un atto riservato e quella che risulta da un documento che ti porti in tasca e che è di immediata lettura. So che per molti a non fidarsi del governo di questi tempi si fa peccato, ma mi permetterete di fronte a un provvedimento che significa in sostanza una diminuzione dei diritti e un aumento dei controlli, mi permetterete di dichiarare pubblicamente che proprio non mi fido.